L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati in questo sabato tra due feste, possiamo dire, tra Natale e Capodanno. Ed è proprio pensando a queste due feste che abbiamo organizzato, per così dire, questa puntata. Perché questo è uno dei periodi in cui impattiamo di più sull'ambiente. Facciamo regali, facciamo grandi pranzi o grandi cene. Abbiamo molti scarti, sia alimentari che da imballaggio. Ecco, questo è il momento di non farsi prendere dalla frenesia del buttare tutto senza pensare. Dobbiamo fare attenzione a riusare, recuperare e riciclare come si deve. E allora cominciamo con il sentire i consigli di Marinella Correggia, che è autrice di Rifiuti Zero, manuale di prevenzione e riuso per una vita e un'economia senza scarti, edito da Altra Economia. Contiene questo manuale consigli ad ampio spettro per ridurre i nostri rifiuti in tutti i momenti della nostra vita e non soltanto a Natale. Noi però Marinella l'abbiamo coinvolta principalmente per parlare di rifiuti alimentari. Quindi Marinella, ti chiediamo come comportarci per ridurre il nostro impatto e avere meno scarti possibile. Ecco, sì, diciamo che questa è la prima delle prevenzioni dei rifiuti, perché davvero fare trasformare il cibo in scarto e in rifiuto è un peccato, anche se poi se c'è la raccolta differenziata o comunque si fa il compostaggio, ma è meglio che il compostaggio sia di parti non commestibili come i torsoli o quant'altro e non di cibi che potremmo mangiare e che invece buttiamo per qualche ragione. Sì, purtroppo spesso gli stessi frigoriferi sono delle specie di camere mortuarie di cibi che vengono lasciati al fondo di qualche scaffale e vanno a male, e questo va evitato. Quindi partiamo innanzitutto dal piatto. Sembra incredibile dirlo, ma ancora in questi periodi di crisi si vede che nelle stesse mense o nei bar o forse anche a casa si lascia ancora del cibo avanzato nei piatti, quindi lì è tutta una organizzazione starci, perché dobbiamo essere con gli ideali, la testa negli ideali alti nel cielo, ma i piedi ben piantati per terra, e quindi dobbiamo organizzarci in modo da non metterci nel piatto più di quanto osserva, e andando un po' più a monte, non cucinare più di quanto poi non si mangi. Io non ho neanche il frigo, però cerco di organizzarmi in modo tale da non fare questi scarti. Andando ancora più a monte, evitare di comprare più di quanto non ci serva, perché questo succede spesso. Possiamo poi anche, questo sul piano personale, per evitare i nostri scarti, per evitare di buttare cibo, che è stato un argomento che è stato al centro tra l'altro dell'ultima conferenza della FAO sull'alimentazione e anche della campagna europea per la riduzione dei rifiuti, la settimana europea che si è tenuta alla fine di novembre. Andiamo un po' più a monte e cerchiamo di prevenire gli scarti altrui. Quindi per esempio una buona idea è andare al mercato ortofrutticolo, ovviamente con le nostre sporte, in modo da non farci dare sacchetti di plastica o di altro materiale monouso. Andare al mercato ortofrutticolo forse alla fine della mattinata, e così risparmieremo e forse eviteremo che molti di questi ortaggi e frutta che sono assolutamente commestibili finiscano nel compostaggio collettivo, quando non c'è ancora peggio. E poi vabbè, se andiamo un po' più in là, c'è tutto il discorso del modello alimentare, e quindi pensiamo un attimo a uno scarto a cui non si pensa. Quando compriamo, invece che le materie prime secche da trasformare in casa con un po' di organizzazione, quando compriamo invece gli inscatolati, e questo alla fine non è uno scarto di cibo, ma significa molti altri rifiuti prodotti, oltre al fatto di l'acqua che poi buttiamo, l'acqua per esempio della cottura delle lenticchie o di altro, significa che abbiamo fatto viaggiare dei camion pieni di lattine invece di comprare le lenticchie magari da produttori biologici sfuse o comunque secche nel loro sacchetto. Questo vale per tantissimi prodotti, se pensiamo che c'è addirittura il brodo in scatolato nel Tetra Pak, che significa semplicemente trasportare acqua con un po' di aromi, pensiamo a quanto possiamo evitare di sprechi intorno al cibo. Ecco, non è solo lo spreco di cibo, è la produzione di rifiuti in tutto questo sistema che sta intorno al cibo. E poi addirittura ci sono degli accorgimenti, molto spesso sono i bambini, no, a lasciare il cibo nel piatto, e questo è tutta un'educazione alimentare che se si fa da piccoli si mantiene per tutta la vita. Sì, certo, no? E anche questo è un tema molto interessante, perché comunque non è che se la mamma si mangia tutto quel cibo la questione si risolve, è l'educazione del bambino che deve produrre dei frutti sì, per il lungo periodo, con dei vantaggi per tutti, insomma. Certo, certo, perché appunto l'educazione alimentare, l'educazione a non sprecare, quindi a essere anche creativi, no? Trovando dei modi anche creativi per non sprecare e per minimizzare il nostro impatto sul pianeta, è qualcosa che serve per il futuro e non è un escamotage del momento del pranzo. Marinella, userei gli ultimi minuti a nostra disposizione per dare qualche consiglio a coloro che volessero intraprendere la via del compostaggio domestico, che è una possibilità, cioè dobbiamo stare attenti a non comprare troppo, a utilizzare bene, a riutilizzare gli scarti. In ultima analisi, comunque lo scarto magari c'è, e c'è modo di compostare a casa se non c'è la raccolta differenziata del comune. Sì, sì, sicuramente. Ecco, ricordiamo, sottolineiamo che è un po' più complicato compostare appunto i cibi cotti, così come è più complicato compostare i residui animali. Invece per quanto riguarda le parti non commestibili dell'ortofrutta è molto semplice. Ci sono delle compostiere apposta che si possono trovare su internet, adesso non diciamo marche, in molte zone ormai, se si ha un pezzetto di terra, il terrazzo no, ma un pezzettino piccolo di giardino si può compostare. Hanno avviato in certi casi le compostiere di condominio, quindi nei giardini condominiali, ed è un'idea che possiamo suggerire al condominio, un modo per essere cittadini attivi oltre che riflessivi ed ecologisti in proprio, e appunto ci sono delle compostiere che vanno benissimo anche sul balcone. E lì ci possiamo mettere anche i fondi di caffè e tutto quello che appunto non si può usare diversamente. Questo se appunto non c'è la raccolta dell'umido, che è comunque fondamentale per evitare appunto che tutto vada a finire in discarica o malamente quanto raccolta differenziata. E poi come avevo suggerito in un altro manuale, o no, anche nel manuale Zero Rifiuti, c'è addirittura modo di costruire da sé una piccola compostiera, sempre ricordando che meno scarti facciamo, più facile è compostarli. Grazie a Marinella Correggia, ricordo, autrice di Rifiuti Zero, manuale di prevenzione e riuso per una vita e un'economia senza scarti, edito da Altra Economia. Ed ora passiamo ai regali. Sono anni che vanno, per la maggiore quelli di apparecchiature elettriche ed elettroniche, sia per bambini che per grandi, e allora abbiamo convocato Danilo Bonato, direttore generale del Consorzio Remedia, ovvero uno dei principali sistemi collettivi italiani no profit per la gestione ecosostenibile di tutte le tipologie di RAE, che sono, ricordo, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, appunto. Allora, Bonato, sentiamo cosa ci consiglia lei. Sì, qui abbiamo letteralmente milioni di oggetti, e basta pensare che circa un terzo dei giocattoli tradizionali contengono ormai delle componenti elettroniche, poi ci sono tutti quelli che sono i videogiochi, le console. Noi quando compriamo nuovi prodotti abbiamo il problema di smaltire correttamente i vecchi. Ecco, come comportarsi qui? Dobbiamo ricordarci che i giocattoli elettronici sono considerati RAE, cioè rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche, e quindi vanno gestiti, vanno raccolti in modo differenziato. Perché contengono anche materiali pericolosi da una parte, magari preziosi dagli altri, esattamente come può accadere con un computer, con un telefonino, che magari più intuitivamente comprendiamo essere di valore. Sì, non diamo molto peso al giocattolo quando lo buttiamo via. In realtà ci sono delle componenti che hanno un valore economico, le schede elettroniche, anche dei metalli, e questi vanno recuperati perché rappresentano comunque una risorsa. Poi c'è anche il tema ambientale, perché ci sono delle plastiche che possono essere nocive e comunque che in una discarica impiegherebbero millenni ad essere smaltite, quando invece noi potremo con un gesto molto semplice, far arrivare questi giocattoli che non usiamo più agli impianti specializzati che recuperano tutti i materiali di cui questi sono costituiti. Questi impianti specializzati di solito sono dal cittadino facilmente raggiungibili andando, non so, all'isola ecologica, per esempio, consegnandoli direttamente. Sì, però c'è una grande novità da quest'anno, molto importante, che riguarda la possibilità di portare i giocattoli ai negozi, soprattutto quelli della grande distribuzione, quindi grandi centri commerciali, perché c'è un obbligo per questi centri commerciali di raccogliere, di ritirare dal cittadino senza obbligo di acquisto i vecchi prodotti elettronici, tra i quali anche i giocattoli ovviamente. Questo in maniera molto semplice, senza costi, senza particolari procedure burocratiche. Quindi abbiamo un sistema molto semplice oggi per liberarci in modo corretto dei giocattoli che buttiamo via o che non utilizziamo più. Questo è molto, molto importante, molto interessante e assai poco conosciuto, credo, perché io ad esempio non ho visto anche dei punti raccolta così. Quindi sì, si chiama 1-0 ed è una modalità che in tutta Europa è piuttosto diffusa, che finalmente iniziamo anche a introdurre in Italia. Il cittadino, l'ascoltatore che ha bisogno di liberarsi di qualunque tipo di prodotto elettronico di dimensioni, precisiamolo per correttezza, fino a un massimo di 25 centimetri, quindi parliamo di oggetti di piccole dimensioni, tra cui appunto molti giocattoli. Ecco, in questo caso è un servizio che dobbiamo ricevere perché c'è un obbligo di legge e la distribuzione, devo dire, da questo punto di vista si sta organizzando ed è pronta a offrire un servizio di questo tipo. Invece, se ci regalano un televisore, una lavatrice, quindi un grande elettrodomestico, abbiamo due possibilità, quella di recarci a un'isola ecologica dove c'è la raccolta differenziata di questi rifiuti e poi il comune ci può spiegare tutto nel dettaglio, oppure di nuovo se l'acquisto che facciamo di un nuovo prodotto si abbina anche allo smaltimento di un vecchio prodotto, bene, questo è un obbligo sempre del distributore, del negoziante. In questo caso si parla di 1-1, quindi restituisco un vecchio prodotto a fronte dell'acquisto di uno equivalente nuovo e non devo, io cittadino, sostenere dei costi perché è un servizio totalmente gratuito. L'altro pianeta. Di nuovo ben ritrovati per l'altro pianeta, stiamo parlando di prevenzione di scarti e rifiuti in questa puntata, abbiamo parlato di alimenti proprio all'inizio del programma, ora invece siamo in compagnia di Danilo Bonato, direttore generale del consorzio Remedia che si occupa di RAE, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche che non vanno mai gettati nella spazzatura, nemmeno quando non funzionano più. Prima di lasciare Bonato alle sue vacanze meritate, vogliamo chiedergli però se ci sono novità per quel che riguarda il riutilizzo di apparecchiature che abbiamo sostituito ma che sono ancora funzionanti o che potrebbero tornare a funzionare con piccoli interventi, quindi potrebbero essere queste apparecchiature utili ad altri. Ne abbiamo parlato in altre puntate dell'altro pianeta. Bonato, qual è la situazione adesso? C'è qualche novità normativa? A livello normativo ci sono delle novità importanti, perché c'è una nuova legge, un decreto che risale ad aprile del 2014, che indica un percorso per favorire questa pratica che si chiama appunto riutilizzo. Perché riciclare un prodotto che funziona ancora quando invece posso allungarne la vita e farlo utilizzare da qualche altro consumatore? A livello pratico stanno nascendo finalmente anche in Italia i primi centri per riutilizzo. Sono delle strutture abbastanza recenti, è ancora difficile purtroppo per il cittadino identificarle, però è bene dire che questa possibilità inizia a esserci, soprattutto per prodotti come i computer, i telefonini. Ecco, qui c'è di fatto c'è un mercato per i prodotti usati che sta diventando un mercato importante e una valida alternativa al buttare via, diciamo andare alla piazzola ecologica. Quindi il consiglio è di tenersi pronti perché nel 2015 questi centri del riutilizzo dovrebbero crescere sia in numero sia da un punto di vista della qualità dei servizi offerti. Quindi per cercarli, diciamo che la parola chiave è riutilizzo, ecco, centri per il riutilizzo. Sì, credo che sui motori di ricerca. Sì, su qualche motore di ricerca. La parola chiave. Sì. Ok, va bene. Grazie. E ne approfitto per farle tantissimi auguri. Anche lei. Grazie, auguri. Bene, grazie ancora a Danilo Bonato, direttore generale del Consorzio Remedia. In quest'ultima frazione della trasmissione ritroviamo con piacere anche Carlo Montalbetti, che è direttore generale di Comieco, il consorzio per il recupero di imballaggi in carta e cartone. Montalbetti, cosa possiamo fare di pacchi e pacchetti di Natale di cui siamo sommersi in questi giorni? Per chi non l'avesse già fatto negli anni passati, la prima cosa è che quando si ricevono i regali stare molto attenti alla confezione, in particolare parlo di carta e cartone. Perché? Perché in alcuni casi sono magnifiche le scatole che contengono il dono. In questo caso il suggerimento è tenetele da parte perché le potete riutilizzare l'anno prossimo. Laddove questo non è possibile. Che è molto meglio che riciclare il regalo, no? Meglio riciclare, certo, la scatola. Assolutamente, e ci sono delle scatole veramente molto belle. Ha ragione. Possono avere, diciamo, una vita utile che va ben al di là di questo Natale. E la seconda invece segnalazione, per quanto riguarda tutti gli altri tipi di imballaggi, la stessa carta che serve per fare il pacchetto dono, mi raccomando di consegnarla alla raccolta differenziata, eliminando tutti gli altri materiali diversi che eventualmente fossero presenti. Senta, non è molto facile, direttore, questo, perché le carte sono tutte diverse, alcune sembrano un po' plastificate, altre si capisce chiaramente che sono carta. Lì come ci comportiamo? Ma guardi, le plastificate in realtà ci si accorge perché hanno una pellicola sopra. Laddove non c'è questa, diciamo, pellicola, evidentemente sono carte che possono tranquillamente andare alla raccolta differenziata. In più, generalmente i doni non sono fatti da, o almeno non hanno diretto contatto con gli alimenti, e quindi presentano anche un grado di pulizia più che sufficiente. Laddove ci fosse un contatto diretto con invece l'alimento, mi raccomando, queste invece carte conferitele alla raccolta dell'umido. Vanno benissimo perché sono un ingrediente nella preparazione del compost molto apprezzato. Ah, davvero? Quindi adesso la carta, mettiamo che venga in contatto col prosciutto, perché ci regalano qualcosa di alimentare, quindi quella non la mettiamo nella carta, bensì la destiniamo in un'altra direzione. Esatto. Perfetto. Nell'organico. Hai molti comuni, circa il 60% in Italia la raccolta dell'organico lo fanno. Tenete presente che appunto in questo flusso di materiale può essere sicuramente conferita la carta che ha avuto contatto con l'alimento. Pensate alla scatola della pizza, ecco, che è la cosa più semplice del mondo. Certo, sì, perché un tempo non si poteva, adesso invece diciamo che si può, perché i sistemi sono cambiati e quindi si recupera anche questa. Tornando un attimo a quella carta un po' plastificata che dicevamo prima, quella va nella plastica invece? No, o nell'indifferenziato? Quella va messa nel sacco nero perché non è riutilizzabile né dal settore della plastica né da quello della carne. Né carne né pesce. Esattamente. Dunque, quindi abbiamo detto, le scatole, quelle molto belle, le possiamo recuperare per altri regali. La carta, abbiamo detto con quali destinazioni. Poi ci sono i nastri, ma quelli credi che ci si può fare poco? Beh, secondo me i nastri generalmente, quando hanno la dimensione giusta, vengono riutilizzate. Almeno mia moglie e le mie figlie di solito fanno così, e devo dire con anche un discreto successo. Diversamente il nastro in quanto tale va eliminato. Che altro ci resta? Direi che magari possiamo dare qualche consiglio un po' per la fantasia di chi ascolta, quindi può recuperare alcune carte o alcune scatole, oppure può creare qualcosa di nuovo magari da altro, no? Che vedevo suggerivate anche, usiamo la carta dei giornali, ricoloriamola, facciamo qualcosa per evitare di... Beh, qui è un mondo davvero molto variegato, soprattutto quando questo utilizzo viene rivolto, diciamo, all'infanzia e ai bambini. Si possono, dipende ovviamente dalle dimensioni dei contenitori, delle scatole, ma da questo punto di vista si possono realizzare davvero un sacco di cose, dalla barchetta all'automobilina. C'è solo la fantasia da questo punto di vista che si deve sviluppare, tant'è che c'è un'importante casa nel settore diciamo così dei dolciumi che non casualmente ha messo come, diciamo, premio quello di dare a chi raggiunge un certo numero di punti una vera e propria casetta di cartone. Può diventare un divertimento una volta che viene rapidamente montata, perché è semplicissima per quanto riguarda i giochi dei bambini. Quindi le possibilità sono veramente moltissime. credo che la cosa più importante sia quello di prestare un minimo di attenzione. Sono convinto che con un minimo di attenzione alla fine sarà veramente pochissimo quello che della confezione di regalo che abbiamo ricevuto verrà, diciamo, messa nel sacco nero. Il 90% può essere o riutilizzato o mandato al riciclo o utilizzato per uno scopo che è più legato a quello ludico e al gioco. Questo per quel che riguarda la parte esterna, poi c'è il regalo in sé che spesso è a sua volta imballato, quindi anche lì dobbiamo fare una certa attenzione, non buttiamo certamente via tutto nella frenesia del Natale. Esattamente, ed è lì che è indispensabile separare, e cioè verificare che tipo di materiale viene utilizzato per questo, diciamo, secondo imballaggio e destinarlo alla sua naturale poi valorizzazione dal punto di vista del riciclo. Credo che ormai questo però sia diventata una sensibilità molto diffusa, e credo che per quanto riguarda queste vacanze di Natale la cosa migliore, come dicevo prima, sia quella di selezionare con molta attenzione, in modo tale che poi il lavoro che viene fatto dagli addetti, poi delle municipalizzate piuttosto che dai gestori del servizio, sia semplificato al massimo. Eh certo, perché tra l'altro sono giorni difficili, perché ce n'è tanta. Di quanto aumenta la raccolta in questo periodo? Ha un'idea? Guardi, può aumentare di un 20, a volte 30%. È naturale che in questo caso bisogna vedere anche gli effetti della recessione, che ahimè rimangono ancora molto, molto duri sul paese, quindi vedremo e tireremo le somme alla fine dell'anno. Senz'altro. L'andamento di questi mesi com'è stato? Ma per quanto riguarda la raccolta, devo dire che noi, i dati che disponiamo, ci dicono che non solo ha tenuto molto bene, ma è anche incrementata a livello nazionale di circa un 2%, ma questo 2% soprattutto è dovuto al balzo in avanti delle regioni del sud, sono circa un 5% in più che crescono, e ha una altrettanto buona performance del centro. Tiene il nord, che è quello che naturalmente ha più diciamo è stato colpito dal processo di crisi, dalla recessione che è in corso. Però sostanzialmente nella raccolta è confermata, che ormai è un'abitudine degli italiani, che il sistema messo in atto dai comuni sta reggendo molto bene. Questo è un buon segnale, perché comunque sappiamo, vabbè, da un punto di vista ambientale ma anche da un punto di vista economico, che aumenti è un buon segnale. E l'ultima cosa che le voglio chiedere è: cosa ne facciamo di tutto quello che abbiamo raccolto? Per quello che riguarda Comieco, che gestisce circa l'80% dei comuni italiani, il 100% della carta che viene raccolta e a noi consegnata è integralmente riciclato. Quindi da questo punto di vista è In Italia o all'estero facciamo questo processo? Guardi, per quello che riguarda la nostra raccolta differenziata, quella che gestiamo noi è prevalentemente sul territorio nazionale. C'è una quota che viene esportata per essere riciclata in altri paesi, ma sostanzialmente è la domanda interna che viene soddisfatta, tant'è che diciamo dal 2005 noi abbiamo integralmente sostituito le importazioni di macero dall'estero, che allora erano di circa 1.200.000 tonnellate, quindi un vero grande balzo in avanti. Eh sì, perché poi diamo soddisfazione alla domanda interna, facciamo lavorare internamente coloro che lavorano nel settore, è tutto un'operazione vantaggiosa, ecco, su larga scala. Direttore, grazie ancora per questo collegamento, buone feste e a risentirci nel 2015 con i dati, insomma, della raccolta annuale. A questo punto ci diamo a quell'appuntamento lì. Certamente, certamente, grazie mille e buon Natale a tutti. L'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora. Vi ricordo l'altropianeta@radio24.it per scriverci. Da Laura Bettini, buon proseguimento d'ascolto e ovviamente buone feste.